Lose your soul and find your dimension of eternity inside your heart. Ascolta la mia voce come se fossi il tuo angelo custode, il tuo diavolo mentore, il tuo migliore amico, il padre che non hai mai avuto, il padre che non hai mai avuto. Ascolta la mia voce come se fossi il tuo angelo custode, il tuo diavolo mentore, il tuo migliore amico, il padre che non hai mai avuto. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Questa è la traccia un'ora mai scritta, che volevi ti portasse dal fango alla gloria. Fallo cosciente che la strada qui scritta non sarà mai dritta, non sarà mai dritta. E non perché tu c'è il posto nella storia, nella storia, ma forse il posto nel cuore di una donna che ti ama ad ogni costo, contro ogni sorta infamia. Questa è la traccia un'ora mai scritta, che volevi ti portasse dal fango alla gloria. Fallo cosciente che la strada qui scritta non sarà mai dritta, non sarà mai dritta. E non per tutti c'è il posto nella storia, nella storia, ma forse il posto nel cuore di una donna che ti ama ad ogni costo, contro ogni sorta infamia. Ad ogni costo, contro ogni sorta infamia. Ma forse il posto nel cuore di una donna che ti ama ad ogni costo, contro ogni sorta infamia. Contro ogni sorta infamia. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Mi puoi trovare al costo di due denari sui tuoi occhi, ma stai attento, denari sacri con cui puoi pagarti l'anima tra gli eterni e tra i saggi delle arti. Mi puoi trovare al costo di due denari sui tuoi occhi, ma stai attento, denari sacri con cui puoi pagarti l'anima tra gli eterni e tra i saggi delle arti. Mi puoi trovare al costo di due denari sui tuoi occhi, ma stai attento, denari sacri con cui puoi pagarti l'anima tra gli eterni e tra i saggi delle arti. Delle arti, l'anima tra gli eterni e saggi delle arti. L'anima tra gli eterni saggi delle arti, delle arti. Se vuoi sentire una voce che ti dica che non sei l'unico a provarci, schiaccia in play e al diavolo i nostri giorni troppo persi. Se vuoi sentire una voce che ti dica che non sei l'unico a provarci, schiaccia in play e al diavolo i nostri giorni troppo persi. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Io ci sarò e non ci sarò insieme. Se vuoi sentire una voce che ti dica che non sei l'unico a provarci, schiaccia il play e al diavolo i giorni nostri troppo persi. Schiaccia il play e al diavolo i nostri giorni troppo persi. Troppo persi.